vinse la lezione. È solo chiacchiere distintivo, solo chiacchiere distintivo. Dicembre 2016, regoliamo un po' qua le manovre del mixer. 25 o'clock ai controlli, ma questo solstizio d'inverno che c'ha tutta una serie di significati mistici, reconditi, simbolici, tutto quello che vi pare. Noi parleremo di un continente dove il solstizio d'inverno invece non è che è proprio molto importante, semplicemente, o almeno insomma in gran parte del suo territorio, perché di fatto le stagioni per come le conosciamo noi non ci sono colà. Ma sono viceversa dettate da altre caratteristiche meteorologiche. E non è importante contare il tempo in base all'allungarsi o all'accorciarsi delle giornate, perché più o meno le giornate sono uguali per tutto l'anno. Parleremo quindi di Africa, ma ovviamente non lo faremo da soli. E lo faremo come un annetto fa all'incirca, poco più. Uno di quegli altri conduttori storici di Radio Onda Rossa e redattori della stessa, che diciamo hanno concluso, almeno per ora, l'iperbole della vita e la partecipazione a Radio Onda Rossa, appunto perché in questo solstizio d'inverno vai. No, aspetta, non ci sei. Ecco qua. Era ora. Questa è la voce di chi disturba, eh. Sto qui apposta. E ce l'abbiamo pure invitato. Beh, insomma, quindi sarà un arrivederci con Radio Africa. Ci faremo dire da lui un po' come è andata questa lunga esperienza dentro Radio Onda Rossa. Beh, vi diciamo invece molto velocemente i contatti della radio: www.ondarossa.info. Il sito della radio, andando a cliccare su Sostieni, troverete una paginetta dove ci stanno scritte tutti i modi per poter sostenere questa emittente, che vive grazie alla tua gestione e all'ausilio di tutte e tutte voi, compagni e compagne che la sostenete, ne condividete il progetto editoriale, eccetera, eccetera, che partecipate in qualche misura e che partecipate anche l'obolo, cioè economicamente. 61 80 40 01 è il numero del conto corrente postale da intestare a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, 00185 Roma Sallollo, via dei Volsci 56. Ondarossa@ondarossa.info per mandare le vostre comunicazioni alla redazione della radio. 25 o'clock@ondarossa.info per gli insulti o le segnalazioni proposte di tracce audio e tutte ste robe qua al sottoscritto. (06) 491750, recapito telefonico di Radio Onda Rossa. anche quello dal 1977, e cioè da quasi 40 anni. Vi ricordiamo l'uscita di Scarceranda, se non mi cazziano. Anzi, mi cazzia proprio. Come ogni anno l'agenda contro il carcere giorno dopo giorno, e stiamo presentando in giro per la città ma anche fuori, e vi ricordiamo, ma poi avremo modo di farlo meglio, del 31 dicembre anche quest'anno sotto Re Bibbia, alle 10 presidio sonoro, alle 13 l'inticcata propiziatoria, alle 13:30 si va verso la sezione maschile e noi iniziamo così, appunto, dall'Africa e dal Mali. Devi yo soy Ala devi yo soy Con itora la co Ala devi yo Javaro masa devi joso Konitora lako Ala devi joso Nyani queste sonorità un po' inedite per questa fascia oraria, 22:52 all'ascolto di Radio Onda Rossa, 87.9 la modulazione di frequenza, 06:49:17:50 il contatto telefonico, quindi 25 o'clock insieme a Radio Africa. Per questa sera abbiamo cominciato con queste sonorità e vorremmo continuare ancora con altre sonorità che un po', come dire, sono evocative, perché queste sonorità del Mali mi fanno pensare a un altro musicista che si chiama Gesù Moricanté, lui è guineiano ed è il cugino di un altro musicista che si chiama Kanté Manfilà, che ha fatto la storia della musica della Guinea. Ebbene, ha fatto un album dedicato a un fiume, River String, il fiume che attraversa quelle regioni. E allora questa idea del fiume che scorre, che insomma, che è anche un po' qualcosa che ha a che vedere con il viaggio, con gli spostamenti, perché insomma in teoria sì, no, ne parlavamo poi anche penso proprio un anno fa, circa il fatto che molte volte i fiumi rappresentano l'unica via vera di comunicazione, un vero budello, diciamo, di anche informazioni, vita, insomma intorno al fiume normalmente c'è un fiorire proprio di esistenza, di umanità, eccetera eccetera, che un po' in tutto il mondo non occidentale è di vitale importanza. Basta guardare Lungotevere. Beh, lui, diciamo, lui è venuto a disturbare, ovviamente. Lui è venuto solo per disturbare, naturalmente, e quindi magari, come dire, il Lungotevere è un po' diverso dal fiume che insomma racconta Gesù Moricanté, che diciamo c'ha un respiro un po' più ampio, per così dire. E soprattutto poi appunto ci dà questa idea del così dello scorrere e dello spazio. Ecco, magari ve lo faccio ascoltare. Thank you. E lui quindi era Gesù Moricantè, con questo, con questa chitarra, questi suoni, river string, maninka, guitar, il fiume in questione, il Niger, un fiume che attraversa, attraversa un gran pezzo d'Africa, perché passa per il Mali, la Guinea, il Niger, e un po' attraversa quello che era l'impero Mandenghe di un tempo. E appunto il fiume ci fa pensare agli spostamenti, ai viaggi, e uno dei temi appunto di questa serata, insomma, che avevamo pensato di trattare sempre, almeno come canovaccio, come, sì, sì, musicalmente anche attraverso, sì, era quello appunto degli spostamenti e delle migrazioni, perché poi quando si parla d'Africa, insomma, inevitabilmente si parla anche di questo, e quindi queste partenze, questi confini artificiali che sono stati tracciati appunto, dalle potenze occidentali, che non sono di fatto riconosciuti, che sono porosi, i popoli africani li attraversano, popoli che vivono negli stessi distretti, negli stessi confini, e poi non hanno, loro non hanno bisogno del visto per venire qui da noi, mentre invece noi possiamo andare da loro a fare i turisti, insomma, a fare quello che vogliamo, insomma, c'è questa asimmetria che, insomma, è anche, ci fa, è una simmetria storica, insomma, comunque quello che è la nostra visione dell'Africa è una visione già di per sé asimmetrica, insomma, c'è tutta una costruzione mentale, culturale, che ancora oggi, malgrado appunto il colonialismo o addirittura quello che c'era, che lo precedeva, quindi la parte dello schiavismo e tutta una serie di costruzioni mentali e culturali dei secoli scorsi, ancora invece hanno, attecchiscono, hanno radici purtroppo qui da noi, e si rifiutano dei principi di reciprocità molto basilari, molto semplici, insomma. Sì, il fardello dell'uomo bianco, insomma, è questa, è il razzismo, perché ancora continuano questi stereotipi, ancora non ci si riesce, un po' dipende anche dalla scarsa conoscenza reciproca, dipende anche dal fatto che noi non conosciamo la storia dell'Africa, o non conosciamo neanche quali sono gli eventi catastrofici che poi provocano questi processi migratori, e non sono solamente eventi catastrofici, ma sono anche processi inevitabili, spinte, certo, demografiche, desiderio da parte di della gioventù, insomma, di vivere in una condizione migliore, o semplicemente una delle ultime così cose che vengono analizzate è proprio quella delle migrazioni meteorologiche, o anche comunque qui, per causa dei cambiamenti climatici, cambiamenti climatici che senz'altro sono portati ad esempio da quella che è la produzione enorme di CO2 che viene fatta appunto nel pianeta, e vedete già come il discorso si allarga, ma cambiamenti climatici che comunque sono propri del pianeta Terra in ogni caso, e che quindi hanno portato alla estinzione dei dinosauri probabilmente in epoche geologiche, ma che hanno continuato a portare anche a provocare appunto degli spostamenti umani da una terra all'altra, perché appunto davano corpo a carestie piuttosto appunto che a condizioni non vivibili climatiche, che in territori come l'Africa, ma anche come l'Europa e come in ogni altro posto, su scala secolare possono dare adito a queste migrazioni. Quindi ci sta una sovrapposizione poi, no, di cause che portano la gente a spostarsi. Sì, anche la valutazione dell'evento migrazione in sé, la migrazione è storicamente sempre stata un elemento di progresso, di cambiamento, di civiltà, ha sempre costituito un passo avanti la migrazione, perché comunque l'apporto di nuove culture, l'incontro di nuove culture, mentre invece adesso la migrazione viene letta come un elemento di pericolo, come qualcosa da cui bisogna difendersi, mentre invece storicamente è sempre stato esattamente l'opposto. E quindi questi popoli africani comunque queste frontiere, insomma, di fatto non le riconoscono, nel senso che ci passano attraverso, e anche hanno questa spinta ineluttabile, diciamo così, a conquistarsi uno spazio di vita migliore, anche superando quel braccio di mare che ci divide dall'Africa. E allora, a proposito di questo, insomma, c'è un musicista che si chiama Remy Ongala che insieme ai suoi super Matimila ci racconta di un mondo senza frontiere, di un mondo senza visti, senza dogane, senza polizia, un solo sangue, un solo popolo. No more embassies, no more passport, no more flags, no more immigration, no more boundaries, no more border, no more policemen, no more prisoners, no more refugee. One man, different color, from the same father. One heart, one choice, one blood, one love, one voice, one world. Yeah. Yeah. Oh, yeah. Remy Ongala appunto, che insomma aspira come tutti noi a un mondo senza frontiere. Insomma, si diceva del questo processo di immigrazione, che il motore di questo processo di immigrazione sono naturalmente dei fenomeni che hanno degli aspetti insomma enormi dal punto di vista demografico, economico, le guerre che ci sono in Africa, ma poi c'è anche una spinta interiore che passa attraverso il racconto che facciamo noi della nostra civiltà, e che poi in qualche maniera rimandiamo attraverso le antenne paraboliche, insomma. Ed è un racconto potente, insomma, è un racconto che è molto influente, è seduttivo, e questo è un po' il problema principale, insomma, che siamo purtroppo capaci a raccontare le storie, ma purtroppo nel senso proprio capitalistico del termine, nel senso che si ha una potenza proprio nel celebrare se stessi e celebrarlo a tutto il mondo, ecco. Sì, c'è una doppia trascrizione, perché poi alla fine c'è un racconto della nostra civiltà che è un racconto comunque distorto, perché chiaramente lo fanno i mezzi di informazione, lo fa la pubblicità, che poi ci rimanda direttamente un modello di vita che, come spesso e volentieri, neanche noi riusciamo, insomma, in qualche maniera, tra virgolette, ad apprezzare, o addirittura riconoscere, nel senso che poi è molto del nostro immaginario, rimane immaginario, poi nella concretezza di tutti i giorni è qualcosa di inafferrabile che ci complica piuttosto la vita. Sì, ma anche in Africa poi c'è qualcuno che invece, insomma, è un po' più realista e magari dice ai suoi stessi coetanei di non partire, di rimanere comunque nel paese a costruire un futuro lì, oppure insomma ci racconta per esempio un musicista come Shake Low, in un brano che è un brano del 1971 che lui insomma ha rifatto, parla dei suoi amici che volevano andare in Spagna, a Barcellona o morte, dicevano, e lui diceva: guardate, in questo brano fate attenzione, perché voi andate in un posto dove non siete graditi, l'Inghilterra o dove volete andare non è come Dakar, lì dovete lavorare duro, non vi vogliono, e quindi insomma in qualche maniera cercava di dissuaderli. Non è mai troppo tardi, dice questa canzone, insomma, per pensarci prima di intraprendere un viaggio del genere. Shake Low. Oh yeah. Il y en a d'autres à l'aventure. faut, mais moi je suis là pour servir mon pays. Toujours là, petit à petit, va se faire son lit, petit à petit, va se faire son lit, petit à petit, va se faire son lit, petit à petit, va se faire son lit. Donne, donne, donne, colonie panonie, donne, donne, colonie panonie. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Mes copains ils sont partis, y en a d'autres à l'aventure. Petit à petit, aïe, petit à petit, petit à petit, on en y bagnole, petit à petit, on en y bagnole. Insomma, Shake Low insomma, racconta ai suoi amici che non è tutto oro quello che luccica. Stavamo pensando, stavamo parlando prima, ricordando la vicenda degli albanesi che cominciarono ad arrivare sulle nostre coste in Puglia, quella nave piena di disperati. Un bel documentario di Vicari, no? Sì, anche, che noi non conoscevamo, sembravano veramente degli alieni. Arrivavano lì, arrivavano speranzosi anche perché con le parabole appunto avevano visto la pubblicità, il luccichio insomma della nostra civiltà. Sì, anche perché noi probabilmente siamo molto bravi a fare pubblicità, e non solo nello spazio quello della reclaim, no? La nostra televisione è tutta una pubblicità, è pervasa proprio dall'inizio, da quando iniziano le trasmissioni. Una volta iniziavano le trasmissioni in televisione, ormai è un flusso continuo, ormai non esiste più questa la notte, insomma la notte era per la radio appunto. Adesso non c'è più il giorno e la notte, perché bisogna essere sempre produttivi. Adesso il nostro consumo coinvolge anche il nostro stesso tempo di vita. E poi soprattutto non c'è, è un messaggio subliminale per cui il nostro way of life, come viene chiamato, il nostro stile di vita deve essere sempre in qualche maniera pubblicizzato, sponsorizzato, e soprattutto bisogna lanciare un messaggio ben preciso che non ci sono alternative a questo modello di vita, mentre invece forse per esempio in Africa c'è un'alternativa a questo modello di vita, nel senso che c'è un modello di società, di scambi sociali e anche economici che si sono improntati a un altro modello, e questo è sedimentato da secoli e secoli, e questo modello si sta rompendo perché chiaramente è sostituito dal nostro modello di vita. È come se il nostro sguardo crea di fatto l'oggetto del nostro sguardo. E poi potremmo anche aggiungere, no? Probabilmente questo modo alternativo di vivere e di avere un'economia nel senso più squisito del termine, economia è qualcosa di più complesso che un semplice scambio commerciale, ecco, mentre da noi un po' si riassume tutto in un mero scambio di valuta, ecco, si potrebbe anche dire, ma vabbè, quel sistema non funziona mica tanto bene, e la domanda che potremmo porre: ma perché il nostro funziona tanto bene? Appunto, mi sembra che il nostro sia piuttosto disfunzionale, come dire, rispetto alla possibilità di avere una vita decente. Quindi poi il sistema, diciamo così, di relazioni economiche su cui si basava l'economia africana era anche un sistema di scambio e di dono, per esempio, cosa che insomma qui abbiamo completamente perso. Ma poi forse, come dire, è inevitabile per certi aspetti, in quanto il processo di modernizzazione e di espansione del modello capitalista è ormai diventato globale, quindi forse anche, è anche inevitabile che questo accada. Non lo so se è veramente inevitabile. C'è qualcuno che comunque ci racconta. Vai. Volevo dire un bel, esatto, un bel modello, insomma, un modello basato sullo scambio. Contro un modello basato sul dono, insomma, è evidente chi andrà a rimetterci in questo incontro tra questo modello rapinatore e questo modello invece che appunto che regala quello che hai. Anche rapinatore penso sia un eufemismo giusto, perché d'altronde noi ci siamo presentati sempre con un oggetto in mano in questi luoghi e l'oggetto era un oggetto atto ad offendere, un'arma. Normalmente gli europei andavano in giro con le armi, con le loro navi. Sì. No, ma infatti la rapina è diciamo è proprio l'elemento, insomma, di fondo della nostra relazione con come occidentali con l'Africa, perché poi è stato quello il meccanismo, non solamente con l'Africa, anche con tanti altri luoghi dove, insomma, gli occidentali sono arrivati a depredare le risorse economiche e quindi quello economiche e umane, perché anche, insomma, non possiamo dimenticare che dall'Africa sono arrivati milioni di schiavi in tutto il mondo, a cominciare dagli Stati Uniti d'America, questa grande democrazia che ha, insomma, avuto schiavi al suo servizio per molto molto tempo. Beh, è la merce come qualsiasi altra merce, perdone. E quindi questo era questo era il meccanismo veramente bestiale per cui, insomma, anche gli uomini sono merce. Ma dicevamo che c'era qualcuno che ancora ci racconta di questi viaggi, no? Di questi viaggi, ed è Tony Allen, un personaggio che, insomma, ha attraversato tutta la storia della musica africana, perché ha cominciato a suonare con Fela e poi, insomma, è andato avanti per conto suo, e in questo brano che parla dei Boat Journey, del viaggio, dei viaggi nelle navi, sono quei viaggi che, insomma, ci fanno vedere spesso e volentieri in televisione. Come find yourself in the double misery. You don't decide to leave your misery behind from the bad situation in your country. You decide to leave misery behind from the bad situation in your country. Now you jump into the boat. Now you jump into the boat to cross the ocean with all your family. Looking for better situation across the ocean, but you never arrive. Don't take the boat journey, my brothers. Don't take the boat journey, my sisters. Don't take the boat journey, my brothers. Sisters. If you are lucky to arrive, if you are lucky to arrive, just know that inside jail you go find yourself. Yeah. If you are lucky to arrive, make you no say, now inside jail you go find yourself. Yes. Even if they let you enter, na paramulete, go de paramulete for all. If they let you enter, na paramulete, go de paramulete for all. That means the situation here is not so cool. Situation here is not so cool. That's why. Don't take the boat journey, my brothers. Don't take the boat journey, my sisters. Don't take the boat journey, my brothers. Don't take the boat journey, my sisters. Don't take the boat journey, my brothers. Don't take the boat journey. Tony Allen in questo Boat Journey, dove dice appunto non prendete questa nave, fratelli, non prendete questa nave, sorelle, scappate dalla miseria, ma fate attenzione di non finire in una doppia miseria, e quindi insomma è quasi un invito insomma a pensarci prima di attraversare l'oceano con la loro famiglia e andare incontro a situazioni pericolose. Insomma, questo ci raccontava Tony Allen, e voi siete all'ascolto di Radio Onda Rossa 87.9, la modulazione di frequenza 06 49 17 50, per chi volesse telefonare. 25 o'clock che saluta Radio Africa, e chissà quando e se, no, se sicuramente se riusciremo, sì, quando chissà quando rimane, però per la festa della radio ovviamente. Ah, certo, non si discute, assolutamente. Uno spazio dedicato tutto quanto a Radio Africa va fatto. Quanti anni fa hai cominciato con Dunque, la Io ho iniziato nel 2002. 15 anni, sì. Va sì, bene, sì. Insomma, un bel pezzo di storia, un pezzo di musica. Sempre di sabato, ho cominciato con solo mezz'ora e poi piano piano. E poi insomma giustamente le sonorità si sono allargate. Si sono allargate di spazio e di interesse. No, infatti è stata una bellissima esperienza, anche perché appunto il fatto di poter condividere le proprie passioni con tanti e tante penso che sia la cosa più bella insomma che possa capitare. E poi Radio Onda Rossa c'ha questa particolarità, non voglio dire che altre radio, anche altre esperienze non abbiano, però Onda Rossa insomma qualche particolarità in più forse ce l'ha, che è quella proprio di far circolare invece le varie culture che sono girate in questi studi e che si incontrano, danno anche loro forma a strane creazioni nuove. Insomma, tanti anni di questa radio ci insegnano anche questa cosa qua, insomma. Sì, poi certe sonorità, certi discorsi, certe proposte musicali e non solo possono essere solo perché non c'è la reclame, solo perché noi siamo una radio veramente libera, e qui si misura la libertà di una radio, perché appunto non abbiamo questi condizionamenti, quindi possiamo fare anche delle proposte che altrove magari sarebbero, come dire, definite antieconomiche, o che certo, forse potevano in qualche maniera essere, come dire, rischiose dal punto di vista del ritorno. Ebbene, noi non abbiamo questo tipo di problemi, ma riusciamo a osare, insomma, anche questo è un vantaggio della libertà, no? Senz'altro. E allora, insomma, parlavamo sempre del viaggio, poi Tony Allen che metteva in guardia i fratelli e le sorelle, E poi lo straniamento di chi arriva in Europa, degli africani della diaspora che arrivano in Europa, che si guardano intorno, che cercano insomma di organizzarsi, di entrare in contatto con la propria comunità, che poi forse inevitabilmente sono vittime di meccanismi di controllo della stessa comunità, di gerarchie, anche se vengono trasferite sul continente. Allora, di che già Facolì ci racconta come si sente un africano a Parigi. Je pense à toi, je t'écris d'une trois étoiles à Cajun. Tu vois, faut pas que tu tombes ici. J'ai un toit et un peu d'argent. On vit là tous ensemble, on survit. On ne manque presque de rien. C'est pas l'enfer ni le paradis d'être un Africain à Paris. Oh, un peu en exil, étranger dans votre ville. Je suis Africain à Paris. Oh, un peu en exil, étranger dans votre ville. Je suis Africain à Paris. Qu'ils nous ont promis des places, mais c'est par la voie des airs. Elles ne sont pas en première classe. C'est un oiseau nommé Chartres. En attendant que l'oiseau s'envole, des mains noires aux doigts de fée. On tourne autour des casseroles, un soleil au cou de ma fée. Oh, un peu en exil, étranger dans votre ville. Je suis Africain à Paris. Oh, un peu en exil, étranger dans votre ville. Je suis Africain à Paris. Dimanche aussi, je ne fais que travailler. Tu vois, j'en ai de la chance ici. J'aurai bientôt mes papiers. Maman, je sais que tu as l'habitude de trop vite t'affoler. Tu n'es pas d'inquiétude si un hôtel a brûlé. Oh, un peu en exil, étranger dans votre ville. Je suis Africain à Paris. Oh, un peu en exil, étranger dans votre ville. Je suis Africain à Paris. Ti che già Facolì, un africano a Parigi, un africano a Parigi. E allora, insomma, stavamo dicendo del fatto che appunto chi emigra poi arriva in Europa e probabilmente la prima cosa che fa è comunica con qualcuno di cui ha l'indirizzo, qualcuno che è un parente, insomma rientra un po' dentro quei meccanismi di una comunità o anche di aspetti chiusi di una società dalla quale magari i giovani cercano anche di fuggire, perché no? Anche se poi nella metropoli europea, nella metropoli capitalista, chiamiamola anche così, chiaramente questi meccanismi di controllo remoti oppure collegati a dei a una società per certi versi arcaica, in qualche maniera poi non reggono, non tengono più di tanto. Vai, disturbatore. E poi appunto cioè, possiamo immaginare solamente il senso di spaesamento di trovarsi in una società completamente differente dalla propria, e quindi magari la ricerca di punti di riferimento è anche, diciamo, viene naturale. Assolutamente. E poi soprattutto per quanto riguarda i giovani penso che poi dopo cominciano anche a guardarsi intorno, a entrare in contatto con un'altra realtà più dinamica, e si crea quella commistione, quel mutamento che poi fa sì che nascano dei nuovi africani nelle realtà dei fatti. A me alle volte è capitato, non per smentire poi totalmente questa costruzione, però è capitato di avere incontri così con persone che venivano dall'Africa, a scambiarci quattro parole, e anche poi in realtà dall'Africa stessa, nell'Africa stessa si sono andate a sedimentare delle culture e dei modi di essere che alle volte appunto sono già di ritorno della commistione con l'Occidente, per cui magari c'è gente dall'Africa che viene e che ha piacere proprio per il viaggio in se stesso, si trova bene in questa dimensione cosmopolita e si trova a suo agio. E anche questa è un'altra figura che magari viene alle volte poco così. Beh sì, bisogna dire che effettivamente queste persone allora arrivano in Africa, e dipende anche da quale classe sociale appartengono, perché ovviamente anche in Africa ci sono delle classi sociali agiate o meno. La parte della borghesia africana è sempre più simile come consumi, come stile di vita, anche come modalità di pensiero, con la borghesia europea, asiatica, quella globale che consuma. È chiaro che se vengono qui invece come clandestini, come migranti, perché scappano da una guerra, perché si trovano in condizioni di necessità, chiaramente impattano con una realtà completamente diversa, e quindi il loro rapporto con la nostra realtà, con la nostra civiltà sarà un po' diverso, anche perché poi pure viene vissuto direttamente sulle proprie, tutte queste contraddizioni vengono vissute direttamente sulla propria pelle. Però è anche vero che per esempio gli africani non guardano di buon occhio quelli che si integrano in maniera totale con la civiltà occidentale, o meglio che dimenticano le loro radici, che in qualche maniera le mettono da parte. E questo è una critica che si può cogliere anche leggendo un po' la stampa africana, leggendo anche gli stessi riviste o siti che parlano un po' del modo di pensare degli africani. Non viene ben visto chi si integra e dimentica completamente le proprie radici, perché c'è sempre un collegamento. Gli africani, pur essendo qua in Europa, hanno sempre un collegamento con la loro realtà e con il loro continente. E quindi pensando, mi collegavo però al motivo per cui uno dei motivi dell'immigrazione, che dicevamo appunto le pressioni demografiche, la ricerca anche di un modo di vita diverso, una legittima aspirazione, ma anche le guerre, perché chiaramente le guerre in Africa ci sono tante. E c'è un gruppo che sono proprio dei rifugiati, che si chiamano i Refugee All Star, che vengono dalla Sierra Leone, che ci raccontano di come il loro primo album è Living Like a Refugee, perché loro appunto vivono in un campo profughi, poi una TV canadese li ha visti, ha fatto un documentario, hanno prodotto un album, e da lì insomma hanno cambiato vita per certi aspetti. Weapon Conflict è il brano, e ci dice che si racconta che in Africa quando due elefanti combattono, chi ci rimette è sempre all'erba, perché viene calpestato da questi enormi elefanti. E allora Refugee All Star. Of for the river. Have no mercy for the women. Have no mercy for the youth. Have no mercy for the children. But your brothers, you treat them like a business. A positive behavior that's been in the West. You are the best, you're ready, you are the best. You are the best, like nature, you are the best. We have one conflict for the sake of power. Will you sing it again? We have one conflict for the sake of power. Again and again. We have one conflict for the sake of power. Can you listen? When two elephants are fighting, the grass them a suffer. When two elephants they fight, the grass them a suffer. Which is the position of the civilians? So that them a be fooled. Refugi o sta Weapon Conflict all'ascolto di Radio Onda Rossa 87.9, la modulazione di frequenza 06 49 17 50, il nostro contatto telefonico 25 o'clock e Radio Africa per questa sera insieme. Sì, e mi sembra che Radio Africa stia decollando anche in quanto a sonorità. Beh, ma c'è tanta bella roba da ascoltare, diciamo, tanta produzione quasi sconfinata, potremmo andare avanti, come dire, a iosa volendo. Insomma, facevamo un discorso su questo fatto degli africani che arrivano in Europa e su questo termine che per esempio ultimamente sta andando un po' in voga, di afropolitan, che è un termine un po', come dire, opposto al panafricanismo per certi versi, perché è un termine, diciamo così, dove non c'è tanta connotazione razziale di per sé, ma parla praticamente di giovani che vivono in Europa ma in qualche maniera sono di casa anche in Africa e che però appartengono a un ceto medio intellettuale, e quindi sono alcuni scrittori che, insomma, hanno, questo è un termine che è stato inventato proprio da una scrittrice, si riconoscono, diciamo così, in questa definizione, e forse questo poi fa parte del nostro vezzo di etichettare a tutti i costi, insomma, la realtà. Però sicuramente è vero che la migrazione e la presenza della diaspora africana in Europa e negli Stati Uniti ha cambiato per certi versi l'identità degli africani, perché ormai sono un bel pezzo d'Africa che vive al di fuori del continente, e quindi, insomma, anche se poi le categorie che vengono utilizzate per descriverli sono di varia natura, però sicuramente sicuramente c'è un mutamento, come dire, strutturale, generazionale, anche di mentalità, e questo forse per certi aspetti è anche un bene, nel senso che comunque si sono incontrate culture, che comunque in qualche modo poi si è creato anche una certa commistione. E anche noi in Europa in qualche modo abbiamo preso qualcosa, insomma, da questo incontro fra le culture, almeno quella parte di noi che ha, insomma, una mentalità un po' più aperta. Beh, ma semplicemente nel campo musicale pensiamo a quante mode tutto sommato ci sono da noi, no? Rispetto poi ai vari generi, come appunto potrebbe essere la passione per le vibrazioni giamaicane piuttosto che per la musica africana, piuttosto magari che per altre cose, insomma. E niente, insomma, un po' questo qui è... Beh sì, poi attraverso la musica passano naturalmente messaggi che abbattono qualsiasi tipo di, come dire, di frontiera o qualsiasi tipo di resistenza, e quindi penso che proprio attraverso la musica, poi adesso in maniera si è conosciuta di più l'Africa, e questo soprattutto penso alla presenza in Francia di una comunità africana molto estesa, che comunque ha prodotto tantissima musica, ma anche ormai dal punto di vista anche letterario, insomma, si stanno affermando degli scrittori che ci raccontano l'Africa, che vengono letti e tradotti anche in italiano, quindi insomma c'è una conoscenza un po' più approfondita rispetto alla realtà africana, e poi c'è anche naturalmente chi racconta sempre attraverso la musica dei cosiddetti ALA, gli African Living Abroad, degli africani che vivono fuori, fuori nel senso all'estero, ma intendendo fuori dal continente, come questo brano di una musicista nigeriana che si chiama Mselem, insieme a Wunmi, un'altra musicista nigeriana che è una vera e propria regina della dance floor, soprattutto londinese, ma anche a Lagos e in Nigeria. E sentiamocela questa Hala. A tree is not a tree without its roots. So I am. Cause you see, I am African. My roots are deep, like a tree. You can uproot it and take it anywhere, but it's still a tree. I am African. So, you want to know? I am A-L-A. A-L-A. African living abroad. I am African. Some people tell me, say I sound too much like African. Then say I know they do black urban music. So them say make it pop like Top of the Pops. But I know go back to you, cause my tone, I don't they can't be. Some other people say I know be African at all. Then say I know they beat, cause my flow be different. So them say make I sing up just like Missy Gray. I know they bite to you, cause my tone, they can't be. Who are you, Ray? Sitting on the fence and telling me nonsense. What did they tell me? Not living the past, but I'm rugged and fun. African, ALA. A tree is a tree, no matter where you plant it. A tree without root ceases to exist. I am an African, living abroad. Who are you? Who are you, Leo? Who are you? Who are you, Rese? Who are you, oh? African abroad, African living abroad, gli africani che vivono fuori, appunto fuori dall'Africa. Insomma, il nostro percorso così di musica e chiacchiere c'ha un punto di riferimento, che è appunto quello del viaggio, dello spostamento, della migrazione, che quando si parla di Africa, insomma, diventa un elemento molto importante, molto molto presente, perché comunque c'è uno spostamento reale di popolazione, anche perché appunto le condizioni di vita sono complicate, e soprattutto c'è questa asimmetria che, insomma, di cui parlavamo prima, per cui un africano che viene in Europa ha bisogno del visto, non può prendere un aereo e arrivare in Europa, lo deve fare pagando i trafficanti, lo deve fare facendo un viaggio. Vabbè, lì c'è la famosa banalità, insomma, che poi è molto semplice, che nessuno si è mai chiesto e domandato qual è il perché profondo, ma perché non ci sono le navi di linea su queste tratte? Appunto, cioè, infatti il problema è quello: perché non creare i cosiddetti corridoi umanitari, per cui una persona sì, può. Ma basterebbe avere dei normali traghetti, come noi andiamo in Sardegna o in Sicilia o dove capita, avere normali. Penso semplicemente il costo del biglietto, che sarebbe senz'altro minore a quello dei prezzi che vengono indicati per le traversate in gommone. Quindi ci guadagnerebbero anche le compagnie di navigazione. Insomma, adesso sto dire quasi una cosa pseudo capitalistica, tutto sommato. Cioè, il prezzo del biglietto, chiamiamolo così, che pagano i migranti che arrivano in questo paese per fare dei viaggi assurdi in condizioni inumane, è molto più alto di quello che pagherebbero per un biglietto di un traghetto. E quindi c'è un interesse economico dietro a tutta questa faccenda, perché c'è chi ci guadagna molti molti soldi. Sì, ma poi c'è anche il discorso che i migranti, e poi quando parliamo di migranti usiamo un termine molto ampio, sì. Quindi ci sono migranti che provengono da tante parti del mondo per tanti motivi, quindi se poi ci manteniamo, diciamo così, sulla questione dell'Africa, che questo è il nostro, come dire, il nostro percorso questa sera, sicuramente c'è una richiesta di manodopera a basso costo che proviene dall'Europa e dai paesi sviluppati, perché chiaramente non ci sarebbe altrimenti questa possibilità, insomma, quindi c'è un dato obiettivo, ma c'è anche, insomma, un modo non abbastanza scoperto di taroccare, per certi versi, mi viene questo termine, il mercato del lavoro in Europa. E ricordiamo gli italiani, non certo, insomma, appunto, non parliamo di altre popolazioni, ma degli italiani che venivano inviati in Belgio dal governo italiano in cambio del carbone, uno scambio di merce, praticamente di merce umana contro della merce che era il carbone. E quindi possiamo presumere che molti governi africani che non brillano per democrazia e trasparenza usino anche questo tipo di mercato, inviando appunto la loro merce umana in cambio di chissà quali favori. Beh, Marcinelle ci racconta qualcosa a proposito di quello che, insomma, che dicevi te. E quindi sicuramente poi naturalmente gli africani si spostano, anche perché appunto non c'è lavoro, non ci sono soldi, non ci sono prospettive economiche, quindi anche quello è un dato piuttosto importante, anche se poi l'Africa comunque è un continente in crescita, ci sono paesi che hanno enormi risorse e dove il prodotto interno lordo addirittura cresce quasi a due cifre, però non c'è la distribuzione di questa ricchezza, quindi si crea uno strato sociale che può consumare, che ha dei livelli di vita quasi simili, anche forse migliori addirittura della nostra borghesia media, che naturalmente campano sulle risorse, sulle royalty del petrolio, delle risorse. C'è la donna più ricca del mondo, che credo che sia la figlia del presidente angolano, la donna più ricca dell'Africa, e quindi insomma c'è questa disparità anche lì. Insomma, ci racconta a proposito di questo Femi Kuti, che è il figlio, il figlio di Fela, in questo brano che si chiama proprio No Work, No Job, No Money, cioè forse sono anche uno dei motivi per cui tanti africani si spostano, e anche per questo, perché ci sono tanti no. Suffering of the people, they're no getting nothing. Then they're hungry, for the country we get plenty oil and many other different resources. No work, no job, no money. Still the suffering of the people, they're no getting nothing. Then they're hungry. For the country we get plenty oil and many other different resources. Excuse the people, they continue to confuse. No one, no one, no one, no one. politicians continue to misrule. The people, they continue to fool. No work, no work, no job, no job, no money, no money. They're suffering of the people. Hey, hey. They're not getting nothing. Hey, hey. And they're hungry, hungry. For the country we get plenty oil and many other different resources. Africa get different resources. We get different resources for Africa. No war, no job, no job, no money, no money. See the suffering of the people. Hey, hey, hey. They're not getting nothing. Hey, hey, hey. And they're hungry, hungry. For the country we get plenty oil and many other different resources. Oil and many other different resources. No work, no job, no money. Still the suffering of the people. Them no got. E lui è Femi Kuti, quindi si è fatta mezzanotte 03, insomma, fra chiacchiere e musica, 25 o'clock e Radio Africa. Sì, l'ora rubata ai ritmi del consumo e della produzione, ah, questo è il sottotitolo, quindi insomma ci sta tutto anche per le cose di cui abbiamo in qualche maniera parlato anche stasera. Eh sì, noi siamo oltre la produzione, diciamo, siamo completamente al di fuori del meccanismo della produzione, né ci vogliamo stare, anche perché ci stiamo ob torto collo tutto il giorno dentro, quindi insomma questo spazio ce lo prendiamo volentieri. Insomma, si parlava anche del concetto di migrante, nel senso che una categoria, ancora una volta una categoria che naturalmente è un po' tranciante, perché poi chi è migrante arriva in un luogo e tale rimane, almeno sicuramente qui da noi, e quindi non si integra mai, rimane sempre con questa caratteristica appunto di essere migranti, anche se poi magari ci sono le nuove generazioni che nascono qua in Italia e quindi sono italiani a tutti gli effetti, eppure insomma non sono mai come noi. Sì, c'è anche una sociologia ormai che riguarda proprio le prime, le seconde, le terze generazioni di persone nate fuori dai confini, diciamo, nazionali europei, ed è una categoria che ha tutta una sua peculiarità sociale, insomma, ci stanno libri e film scritti a riguardo, nonché gruppi musicali, ad esempio, proprio. E poi una cosa che a me insomma fa molto piacere è vedere in giro per la città, sui mezzi pubblici che insomma tutti noi prendiamo, molto spesso delle persone che non hanno, come diceva quel tale, i tratti somatici italiani, che invece parlano il romanesco, e quindi insomma diciamo sono già inserite ormai in questa città e fanno parte di questa città, insomma, seppure non hanno i lineamenti come i nostri, eppure sono come noi, come tutti noi. Sì, c'è un chiaramente uno stereotipo, c'è un modello per cui chissà per quale strano motivo qualcuno si è inventato l'esistenza di una razza italica, che in altre parti non esiste, perché noi siamo sempre stati un territorio di conquista, di mescolamento, di incontro. Quindi non son costruzioni politiche che, appunto, vengono fatte passare per costruzioni sociali, antropologiche, ma sono costruzioni politiche, cioè studiate a tavolino, che hanno degli scopi ben precisi, che non hanno nessun fondamento storico, fra le altre cose. E quindi poi certo questi meccanismi di esclusione non è che sono solamente nostri, perché poi se li riportiamo in Africa esistono per esempio forme di razzismo anche fra gli stessi africani di chiusura rispetto per esempio a migranti che provengono da altre regioni, non solamente a certo causa... anche l'Africa ha la sua storia estremamente travagliata, ovviamente non solo a causa delle distinzioni etniche ma naturalmente anche a causa di conflitti che riguardano gli interessi materiali, insomma, e questo chiaramente accade anche lì. Ma essendo l'Africa un continente anche molto molto vasto, insomma, non possiamo dimenticare che anche noi europei abbiamo avuto battaglie, guerre infinite. Oggi appunto c'è l'Europa unita, ma fino a non tantissimi anni fa c'erano insomma guerre in corso tra stati europei che, e tuttora a volte insomma si insomma escono fuori qualche antico afflato razzista verso gli uni o verso gli altri. Sono paesi confinanti che non si guardano magari di buon occhio. Chissà perché noi abbiamo ricordato neanche tanto tempo fa, i 100 anni del grande massacro della prima guerra mondiale, poi magari pretendiamo che i paesi dell'Africa che sono diventati indipendenti intorno agli anni 60 riescano a fare in 50 anni quello che l'Europa ha fatto in 300-400 anni. Effettivamente c'è una, come dire, anche qui considerando che poi l'Africa parte con un, come dire, con un fardello che è il colonialismo, perché il colonialismo comunque ha avuto degli effetti devastanti, ha condizionato lo sviluppo di questi paesi dal punto di vista economico, ha costruito delle elite vendute, insomma ha delle responsabilità enormi, e ancora il colonialismo nella sua forma di neocolonialismo ancora insomma influenza in maniera pesante gli sviluppi economici e sociali di tutto, sì, il continente. Fino a quindi... pensare appunto che poi il colonialismo in realtà non è mai terminato, sì, in quanto poi alla fine ha semplicemente assunto altri aspetti che sono quelli delle royalty, appunto dello strozzamento economico, lo sfruttamento delle risorse, insomma, certo. Depredamento risorse, e pensiamo al delta del Niger, insomma, e a quello che viene fatto dalle compagnie petrolifere in quell'area lì, dove appunto un territorio viene probabilmente reso invivibile per molti anni o secoli o decenni o secoli a venire, in virtù del fatto che quella zona è ricca di petrolio, che ovviamente non serve propriamente agli africani, anzi, in parte molto piccola, ma che serve invece all'approvvigionamento delle nostre opulente società. Sì. Come detto prima, forse serve ad alcuni pochi africani. Sì, ma poi sto pensando che coloro che insomma hanno immaginato e hanno anche lottato per un processo di sviluppo diverso, il modo in cui sono stati trucidati dalla repressione, immagino Lumumba per esempio, che fu ucciso dai belgi, ma la cosa che colpisce è che il suo cadavere fu fatto a pezzi e poi sciolto nell'acido, perché non doveva rimanere nulla di lui, non doveva rimanere neanche il posto dove c'era il corpo, perché non doveva rimanere il ricordo di Lumumba. Penso a Ken Saro-Wiwa, che fu impiccato appunto, quindi c'è anche, come dire, una ferocia che porta alla cancellazione di qualsiasi elemento che possa immaginare un elemento di cambiamento, insomma. Quindi è un processo complesso quello della liberazione del continente, e l'aspetto della migrazione fa parte di tutto questo, è intrecciato in maniera molto molto forte. E c'è pure chi, sempre ritornando al discorso musicale, i musicisti che comunque puntano il dito non solamente contro i colonialisti bianchi, ma anche contro le elite africane, contro coloro che insomma si dichiarano rivoluzionari e poi non lo sono, ci sono tanti esempi, contro i dittatori, contro i leader che si definiscono ribelli e che invece non lo erano assolutamente, come fa Seattle Noe in questo brano Leader Rebel. Thank you. talking about you like a secret past. But for me, you are just a zombie. Seattle No, che appunto questo brano Rebel Leader, brano che ci parla di Charles Taylor, il politico liberiano, insomma, che è stato uno dei protagonisti dei grandi massacri nella guerra liberiana e della Sierra Leone. Mezzanotte e 20. Siete Radio Africa decolla, ci decolla. Fa volare questa notte, anche perché vabbè ci staranno le registrazioni e tutto quanto, però insomma noi nel dargli così il nostro arrivederci, queste sono le ultime note che sentite maneggiate abilmente. Beh arrivederci, non so, forse non, vabbè lasciamo perdere. Insomma, diciamo che il disturbatore qui fa come al suo solito è subdolo, è subdolo e fa mostra di cinismo sconfinato, sì, comunque sì. Va bene, ce lo teniamo così com'è. E allora insomma parlavamo sempre di questo percorso delle migrazioni e anche del fatto che comunque l'Africa è indebitata, cioè nel senso che comunque l'Africa non è solamente una questione di risorse, ma anche è una questione di sfruttamento delle risorse, ma anche il fatto che i proventi di queste risorse trovano dei rivoli e dei percorsi completamente diversi che allontanano naturalmente queste ricchezze dall'Africa. E ci sono le ricchezze dei dittatori, le ricchezze dei dittatori sanguinari finiscono spesso e volentieri nei forzieri delle grandi banche svizzere, dei paradisi fiscali, come era successo per esempio, per dirne solamente uno, Mobutu, insomma, e tutti e vanno altrove, quindi insomma gli africani rimangono solamente o le briciole oppure comunque vedono tutte le loro risorse o addirittura il danno, ecco. Il danno o le briciole, assolutamente. E insomma c'è qualcuno che questa cosa ce la dice in maniera proprio chiara, netta e tonda, di che già fa colì, qualcuno che insomma di queste cose attraverso la musica ha sempre parlato. Lui viene dalla Costa d'Avorio e il brano è un brano che insomma che Radio Africa spesso e volentieri insomma vi ha fatto ascoltare, l'Afrique du Fric. Afrique esclavagisée, colonisée, matérialisée, dévalisée. Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. Les montagnes de fric volées par la France-Afrique. Les tyrans complices, les gars dans les comptes en Suisse. Les poulevins des survins, les crédits des débits, aïe aïe. Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. Ainsi dans l'Afrique. diriger, tyranniser, manipuler, dévaluer. Ainsi dans l'Afrique gloire du fric. Ainsi dans l'Afrique gloire du fric. Ainsi dans l'Afrique gloire du fric. Ainsi dans l'Afrique gloire du fric. La solde des mercenaires et les âmes des tortionnaires. Des milliards de francs volés à des pays souffrants. Les coups de fouet, du fouet, les sales sous des sassous, ya ya ya. Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. Sans ans d'esclavage, plusieurs années de travaux forcés, des milliers d'entreprises qui pillent. Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. Les complots du FMI et les plaintes de la Banque mondiale, des milliards d'euros volés par des bandes d'escrocs, les fonds comptes de compte et les sales sous des sassous. Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. Les montagnes de fric volées par la France-Afrique. Les présidents africains sont complices de ce trafic. Les coups fouet du fouet, les gombos des bongos, ya ya ya. Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. Est-ce que l'Afrique doit encore? Est-ce que l'Afrique doit encore? Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. Mezzanotte 23, all'ascolto di Radio Onda Rossa, 87.9, la modulazione di frequenza 06.49 17.50, che è attivo anche dopo la mezzanotte, se volete potete chiamare liberamente per dire tutto quello che volete. E allora, 25 o'clock Radio Africa per questa serata, insieme parlavamo dell'immigrazione, insieme alla musica africana, insomma, perché Jafakoli è uno degli artisti, insomma, più di punta della musica africana, e soprattutto è quello che incarna anche, come dire, l'impegno civile degli artisti africani, perché bisogna dire che, insomma, scoprendo queste sonorità, ci sono moltissimi artisti che si sono sempre impegnati nella società civile, che hanno sempre utilizzato la musica come un'arma, questo, insomma, già lo diceva Fela, ma che hanno sempre detto quello che pensavano in maniera libera delle contraddizioni sociali dell'Africa attraverso la musica, e si sono sempre espresse, pur a volte pagando anche di persona. Quindi, insomma, da questo punto di vista ci sono dei begli esempi, insomma. Vai, non ti addormentare. A cominciare da Fela Kuti, che appunto perse la madre quando il generale i soldati occuparono la comune Calacuta, e la madre fu gettata dalla finestra, che poi, fra le altre cose, la madre era un personaggio pubblico molto importante, una delle principali, le maggiori esponenti del movimento femminista nigeriano, una persona che era andata in Cina, aveva incontrato Mao Zedong, insomma, era una persona, una donna di spessore, una donna di spessore, fu gettata dalla finestra e morì a causa delle ferite, e quindi insomma, e poi Fela pagò con la prigione, naturalmente pagò con la prigione, fu torturato, insomma, quindi sicuramente lui è uno degli esempi, ma ce ne sono tanti altri che comunque hanno pagato il loro impegno civile. E questo è un aspetto importante, perché attraverso la musica, forse proprio perché l'Africa ha una tradizione orale soprattutto, si tramandano, si passano certi discorsi, e quindi c'è è un luogo, quello della musica, in cui comunque passano tanti messaggi. E naturalmente c'è anche la musica commerciale africana, perché insomma c'è anche quello, quella, diciamo così, più adatta ai turisti, adatta agli occidentali, alle compilation, alla cosiddetta, certo, world music, però per fortuna insomma non c'è solo quella, anzi c'è tanta produzione anche indipendente, anche se poi succede spesso e volentieri che i musicisti diventano famosi perché incrociano delle etichette occidentali, che oppure fanno la collaborazione classica, Ray Cooder, certo, piuttosto, che vengono scoperti, diciamo così, ancora qui torniamo al discorso dello sguardo dell'Occidente che crea la realtà, vengono scoperti da musicisti occidentali. Ma spesso è anche una questione di mezzi tecnici che sono molto spesso mancanti, e quindi diciamo viene ovviata questa mancanza, diciamo, ricercando all'esterno dell'Africa quello che non trovano nel loro paese. Ma infatti accade spesso e volentieri che gli artisti africani che hanno successo, come il caso di Salif Keita e Youssou N'Dour, e Salif Keita in maniera particolare, creino degli studi di registrazione in Africa, dove è possibile naturalmente produrre. Però ci sono anche dei paesi, come era il Congo, come poi anche il Sudafrica, che producevano molti dischi, molti vinili, cioè nel senso c'erano proprio di una catena industriale. Poi la guerra civile, insomma tanti altri eventi hanno portato comunque poi in qualche maniera a esaurirsi. C'è un mercato del pirata molto, molto forte in Africa, perché tutto passava attraverso le cassette, ancora attraverso le cassette, però adesso si stanno modificando anche le modalità di ascoltare la musica, anche gli strumenti attraverso la quale si ascoltano la musica cambiano, diventano quelli ormai che abbiamo anche noi, e quindi insomma c'è anche un modo diverso di fare, ci sono molti video, ci sono dei canali televisivi che passano solamente video musicali, insomma c'è un'evoluzione. Anche una bella collezione su YouTube, insomma, per chi ha voglia di evoluzione, assolutamente, perché ha voglia di giocare. E allora torniamo sempre col nostro discorso, e torniamo seguendo anche un percorso musicale. Lui è Awadi è un musicista senegalese che appunto fa parte di questa nuova generazione. Erano due amici che stavano a scuola, poi si sono incontrati, la loro passione era l'hip hop, e hanno creato i Positive Black Soul. Poi Awadi se n'è andato per conto suo, e Didi Awadi è diventato uno degli esponenti più importanti della scena musicale senegalese, dell'hip hop, ed è anche lui, come Tiké Jafakoli, un musicista molto impegnato, che ha sempre avuto appunto un ruolo nel sociale, e il cui punto di vista insomma pesa anche all'interno della società senegalese, a prescindere dal suo ruolo di musicista. Questo è accaduto anche in altre occasioni per altri gruppi musicali, per esempio come è avvenuto in Mali e anche altrove. E allora Awadi, il suo album Sunugal, questo è Le Cri du Peuple. Chaque fois que le peuple a aux urnes, man, c'est parce qu'il espère un vrai changement. Malheureusement, j'entends encore toujours le même cri. J'entends encore le même cri. Qui vient du bas, le même cri. J'entends encore le même cri. On prend les mêmes, on recommande. De toute façon, c'est pire qu'avant. Les mêmes magouilles, les mêmes deals. De toute façon, c'est pire qu'avant. Les mêmes qui pillent, détournent les vols. De toute façon, c'est pire qu'avant. Ceux qui parlent de changement, te berlent le vice, c'est devenu pire qu'avant. C'est pas de bouffe, pas de job, pas de thune. pas le job. Les promesses qu'on nous a faites s'évanouissent comme une bad job. Les gens autour de moi quand ils bouffent c'est one time. Demande à qui de droit du pain, pour lui c'est no time. Et je vois tous les jours les riches qui ne pensent qu'à nous dépouiller, distraire le peuple et les dévier. Tous les crimes vont les maquiller. Les prix augmentent tous les jours, oui tout est devenu cher. L'eau, le gaz et l'eau courant, oui tout est devenu cher. Le prix du pain, le prix du sucre, le prix du riz, le prix du lait, le prix du bus, le prix des soins à l'hôpital c'est devenu cher. Mais on ne veut pas de miracle mais simplement des gestes forts, des actes forts qui parlent aux gens, des signes forts. Y'avait des mecs honnêtes mais le système en a fait des voleurs. La ville est pleine de sœurs faciles, l'argent devenu le but. Pourtant des filles honnêtes mais le système en a fait des putes. Confie un poste à qui tu veux, ils ne pensent qu'à voler la caisse. Baisse le froc pour la promotion des S, écarte les fesses. On exploite ainsi les sœurs, toute force est d'obtempérer. T'as pas le choix ou bien t'es viré, ou alors c'est l'intérêt. L'intérêt qui quitte les dirigeants, les nourrit puis les pourris. Pourriture qui vient du haut, attaque le bas et puis le pourri. Le flic vole le taximan, qui vole le rossleman. Alors le rossleman agresse les fils de flics ou bien de taximan. Agressé tous les jours par la richesse et l'opulence de tous ces nouveaux riches qui nous méprisent leur insolence. Limousine, vie de château, oublie les gars du ghetto. Le ghetto voulait le changement, tu bouffes les restes du gâteau. J'ai dit en Afrique, le règne des dictateurs. Le viol de l'imaginaire n'est pas un mythe, il me fait peur. Il nous viole ainsi la conscience, vole ainsi la confiance. Technique imparable qui de plus détruit la méfiance. Et tout satanique qui se resserre autour du cou. On prend des coups à tort et à travers de la vie on perd le goût. Alors on pense à fuir loin du continent, oui loin de tout. Et on va payer notre visa pour les prix d'or à tous les coups. Et les cerveaux du continent, balayer la mer de l'Occident. Nettoie les chiottes et vendre la dope, tu veux savoir c'est irritant. On va me dire tu perds le temps, tu te répètes tout le temps. Mais quand je parle de révolution c'est pour le bien du continent. Je te jure le truc est bizarre. L'amnésie des mecs au pouvoir. Le président t'oublie, pourtant c'est toi qui donne le pouvoir. Le truc est bizarre, l'amnésie des mecs au pouvoir. Le président t'oublie, oublie le président. Lui era Awadi, era Awadi e forse il nostro disturbatore vuole dire qualcosa a proposito di questo brano. No, beh, non tanto su questo brano, ma sul fatto dell'hip hop, una musica che nasce nel South Bronx negli Stati Uniti, ma nasce dai neri statunitensi che sono appunto i figli degli schiavi importati dall'Africa, che ritorna in Africa come molte musiche che appunto che partono da questo continente, da dove sono nate praticamente tutte le musiche del mondo, ritornano poi appunto sotto altre forme, si evolvono e proseguono il loro cammino, come la musica insomma fa, che appunto sì, è c'è in una evoluzione cosa, continua. Una cosa interessante su questo, perché appunto l'hip hop viene conosciuto in Africa, come d'altra parte è successo per esempio con la rumba. La rumba è stata ha incontrato l'Africa con i marinai cubani che venivano nei porti africani portando con sé i dischi di rumba, e poi appunto gli africani hanno mescolato la rumba con le loro sonorità. E l'hip hop stato conosciuto soprattutto dai figli, i rampolli della borghesia africana, che avevano l'opportunità di andarsene negli Stati Uniti e tornavano con questi dischi. E poi si sono incrociati. È cosa ben strana, se vuoi, questa, cioè, con quello che commentavamo prima, che invece la nascita proprio dell'hip hop come genere invece è proprio proletaria, nel senso, nel vero senso del termine, perché appunto fare hip hop è la cosa che costa meno, tutto sommato, di mettere su una band. È la cosa che poi costa meno, è una cosa che fai con niente negli scantinati, eccetera, eccetera. E poi aveva una connotazione soprattutto di identità razziale l'hip hop, certo. Mentre invece in Africa questo accade relativamente, però poi quando questi dischi, insomma, questa comunicazione viene veicolata, si incrocia per esempio in Senegal con il tassù. Il tassù è una modalità per cui si usa parlare di quello che accade in una forma di rap un po' iniziale, cioè nel senso che si probabilmente quello che nell'hip hop si chiama lo storytelling, cioè sì, il raccontare, sì, delle storie. È così, in maniera melodica, oppure facendo in modo che diventi una sorta di canzone, e si raccontano i fatti, si fanno le critiche sociali, si parla, insomma, di quello che accade attraverso questa modalità che si chiama il tassù, che si incrocia a sua volta con l'hip hop. Chuck D dei Public Enemy diceva che il rap è la CNN dei neri. Eh sì, più o meno quello era il senso, sì. E quindi per esempio questa tradizione del tassù consente poi alla scena musicale senegalese, soprattutto quella di Dakar, di crescere a dismisura. A Dakar ogni quartiere c'è un gruppo, almeno un gruppo hip hop, e quindi poi questa scena chiaramente si autoalimenta, naturalmente si autoalimenta, perché poi ci sono i clash fra i gruppi, ci sono i festival, ci sono tutta una serie di iniziative, e poi oltretutto attraverso anche i video, insomma, la comunicazione ormai non ha più frontiere, quindi insomma anche lì è un fenomeno che si autoalimenta. Poi anche perché lì molto probabilmente le sottoculture contengono un nucleo di idee, un nucleo di cose importanti che deve passare da una parte all'altra, ognuno poi prende la parte che più aderisce alla sua situazione sociale, e probabilmente succede anche questo in Africa, insomma. E la cosa particolare, per esempio, proprio quello che dici te, è che in Africa l'hip hop si è diffuso dappertutto, quindi esiste l'hip hop che viene cantato in Wolof, l'hip hop che viene cantato in Swahili nell'Africa orientale, l'hip hop sudafricano che è diventato il Kweto, quindi c'è una commistione, cioè è diventato un linguaggio universale che però viene declinato a seconda della situazione sociale, a seconda del posto. Per esempio il Kweto, che è l'hip hop sudafricano, nasce dai giovani di Johannesburg che lo utilizzano per esprimere un loro dissenso rispetto a quello che è il Sudafrica post Mandela, diciamo così, la generazione nata libera, come vengono definite loro, come si definiscono, e mescolano appunto l'hip hop con le sonorità del luogo, la macanga, e anche con la techno, e nasce il Kweto, che ha delle caratteristiche che è diverso dall'hip hop per esempio dello Swahili, che viene cantato in Swahili nell'Africa orientale, ma che comunque ha delle connessioni, come per esempio il kuduro, che è un hip hop angolano che proprio viene mescolato con un genere musicale della semba. Insomma, riescono in qualche maniera a declinare questo linguaggio universale nelle tante modalità con cui si esprime l'Africa. No, vai. Ma comunque questo succede non solamente in Africa, perché l'hip hop, certo, è una cultura, diciamo, che ha universale, che appunto non conosce alcun tipo di confine. Sì, probabilmente appunto. E questo, prima, scusa, e questa è anche la funzione della musica, cioè abbattere qualsiasi tipo di confine e anche qualsiasi tipo di differenza tra le persone, perché appunto quando si suona e basta, non si guarda il colore della pelle. In realtà quel linguaggio comune che poi viene ritrovato di qua e di là dell'oceano è proprio ad esempio la concentrazione della metropoli, che è un fenomeno globale, cioè non riguarda né né il primo né il secondo né il terzo mondo, cioè ovunque in ogni luogo del mondo c'è un processo di concentrazione della popolazione dentro le grandi città. Ma infatti, e questo fatto qui aiuta appunto un linguaggio come l'hip hop, che ha bisogno della grande città, ci vive in simbiosi, e quindi trovare attecchisce su questo terreno che probabilmente è congeniale per quel tipo di linguaggio. È una cultura urbana, ma chiaramente tutta la musica moderna africana si parla di musica urbana, nel senso che poi con i processi di urbanizzazione e di trasferimento dalle campagne alla città che sono avvenuti intorno agli anni 60, è lì che si crea un nucleo dove il villaggio si trasferisce nella città. È lì che cominciano tutte le commistioni, che è lì che si comincia la produzione, che sarà anche produzione musicale, ma che ha delle caratteristiche urbane ormai, e quindi c'è un cambiamento strutturale proprio anche del modo di fare musica e anche delle tematiche legate alla musica. Certo, poi si intrecciano, cioè nel senso che magari ci sono delle tradizioni che vengono riportate nella città e poi riutilizzate, però di fatto c'è un cambiamento strutturale, e questo passaggio è l'urbanizzazione sicuramente. E questo causa anche il fatto appunto che chi fa spesso questa musica viene appunto da situazioni non certo di ricchezza, e anche qui ci sta la citazione di Lou X, che è dal basso viene la spinta, e appunto l'hip hop nasce proprio in questo modo, cioè con una spinta che arriva dal basso. Beh sì, questo poi le tematiche dell'hip hop sono poi almeno per quanto riguarda l'Africa, ma non solamente per quello, sono sempre le tematiche sociali, sono sempre tematiche di rivolta, insomma è sempre un messaggio di rottura che viene veicolato attraverso questo strumento. E questo è sempre stato una caratteristica di questo messaggio universale della musica hip hop. Ora, quale delle varianti che ci hai enunciato prima, quali delle specialità dell'hip hop africano ci farai sentire? Ma guarda, io invece stavo proprio pensando a un'altra commistione mentre parlavo dell'hip hop, cioè nel senso della capacità che hanno gli artisti africani di riuscire a prendere, a contaminare, a far proprio, a mescolare i generi musicali che provengono da altri luoghi. E in questo caso il funk, per esempio, il funk e la disco, sì. Perché anche lì i musicisti africani, soprattutto quelli di anglofoni, cioè che vengono dalla Nigeria e dal Ghana, forse perché la loro base musicale era la highlife, che più si prestava, diciamo così, a questa commistione, sono riusciti a creare insomma una bella un bel mescolamento, una bella scena musicale che è viva soprattutto intorno agli anni 70, alla metà degli anni 70, nel momento in cui la Nigeria, che aveva un boom economico dopo la guerra del Biafra, in cui girava il petrolio, insomma c'era un po' più di ricchezza, e Lagos era diventata una città cosmopolita dove molti gruppi che venivano dall'Africa occidentale si ritrovavano e ascoltavano il soul e la disco e il funk americano, ecco, dei neri americani, e da lì hanno ricominciato a fare tutte queste loro contaminazioni. E allora ci ascoltiamo un Christy Essen in questo brano che risale alla metà degli anni 70, è un brano che viene dalla Nigeria. Ma io ho capito. Change him from his ways. So women are so ungrateful. So women are so heartless. So women are so rude. So women are so ungrateful. You keep on saying what you wanna say about that man there. They know somehow he made you what you are. You gotta say just what you wanna say about your man over there. Go on. Your man is just your man. Your man's your second god. And a woman's got to be a woman. Oh Lord. Eccoci qua, questo brano che appunto viene da una raccolta, perché appunto si parlava anche di questo aspetto che adesso tutta una serie di etichette discografiche come la Strat, Soundway, insomma, e altre mandano in giro dei DJ, dei personaggi a prendere i dischi che la gente magari ascoltava da giovane, la a gente scovare in Africa, letteralmente a scovarli, sì, a scavare praticamente nelle cantine e quindi prendono questi dischi e poi fanno queste raccolte, naturalmente non pagano i diritti a nessuno, però ci hanno fatto scoprire una scena musicale che era completamente dimenticata, di cui non si parlava più, hanno creato un genere che non riguarda solamente però la musica africana, che è il dusty groove, cioè il groove un po' polveroso, quello che insomma ritiri fuori pulendo la cantina o la soffitta. E poi ci accorgiamo che questo funk è sicuramente molto simile, almeno insomma un primo ascolto, al funk afroamericano degli anni 70, originale, diciamo, tra virgolette. Appunto, però poi si nota una differenza sostanziale, anche la voce e sono anche soprattutto la base ritmica che completa. Io notavo anche lo stile che si sente appena in cuffia, insomma, lo stile del pizzicare la chitarra, sì, insomma, che non è proprio esattamente quello invece che viene dalla tradizione, sì, più blues o infatti più jazzata. E quindi anche lì riescono questi musicisti africani a dargli comunque una personalizzazione, insomma, a modellarlo secondo il proprio istinto, secondo i generi musicali che loro hanno nei loro geni, perché appunto magari si riferiscono allo stile per esempio della chitarra dell'High Life e quindi ce lo mettono in mezzo perché comunque fa parte del loro istinto in qualche modo. E quindi insomma si sente anche la differenza tra appunto le influenze disco, sicuramente, che ci sono anche in questo pezzo, abbiamo sentito poco fa, ma con delle differenze evidenti, appunto, come diceva appunto il mio collega, sulla ritmica, che no, è molto differente. Ci sono differente. Solo compagni, non ci sono colleghi. Ok. Come diceva appunto il mio compagno, insomma, una grossa differenza sulla ritmica, che è molto anche più nostro. Anche nostro. Che appunto dicevo è molto più varia rispetto a una ritmica abituale della disco, che appunto ha origini addirittura tedesche, pensiamo a Moroder, quindi molto più fredda e diciamo quasi elementare rispetto a, diciamo, agli abbellimenti sonori che, che si sentono in questi pezzi. Incredibilmente riuscito anche a finire il pensiero. Sì, lo abbiamo lasciato finire comunque. Sì, malgrado. Grazie. Malgrado l'età e l'ora tarda, è riuscito a concludere un concetto. E comunque, a proposito di questo genere musicale, in genere viene sempre collegato il funk o anche un po' la disco con un elemento di divertimento, di non impegno. Nonostante tutto, anche in questo genere gli artisti africani, come il caso di Johnny Astrup, che viene dalla Nigeria, riescono a metterci, insomma, anche un certo messaggio politico sociale molto interessante e forte, come in questo brano Free My People. Free My People, lui è Johnny Astrup, il brano, l'album è Wake Up Your Mind. Allora, si è fatta l'una, quasi. Sì, più o meno la vorremmo chiudere così, insomma. Ci dispiace molto. Dal tono con cui l'hai detto non sembra. No, ma lui appunto è abile. Ma lui è così. È subdolo, è abile nell'infilare il coltello col nella sale. Piaga, col sale, sì, sì, nella piaga. Col sale, con aggiunta di sale. E quindi, insomma, nonostante il disturbatore, insomma, siamo riusciti ad arrivare fino all'una. E insomma, abbiamo provato a fare un po' un discorso musicale, non solo, insomma, riguardo alla migrazione. Poi siamo approdati, insomma, delle considerazioni sui generi musicali, ma poi a un certo punto, diciamo così, il discorso va un po' per conto suo, un po' come le ciliegie, una sì, tira l'altra e... però poi alla fine invece escono fuori sempre delle cose abbastanza interessanti, tra l'altro proprio perché all'inizio ci diamo solamente un canovaccio, poi molte delle osservazioni, dei commenti e delle vicende nascono proprio spontanee così, dall'ascoltare musica essenzialmente, che è una delle facoltà appunto del suono. Sono spunti che vengono appunto naturalmente E allora io, non so, vi lascerei con un altro brano, sempre mantenendoci su questo genere appunto del funk, un brano di Aracatula, Mr. Bean, e vabbè, poi magari i saluti ce li facciamo quando finale. Finisce il sì. brano. You go shop shit. I said you go shop shit. You go pay your don't know you like that. And you go take your time. Your shoes, then go bend for one corner. You go come back to square one. You not go know yourself again, Mr. Bintu. Me, I would like to know the place you don't go. When you go, you will come back home. Anywhere. You wanna say, yeah, Mr. Bintu. Aracattula, Mr. Bintu, e allora si è fatta l'una, 01. E quindi sì, andiamo a concludere la notte del mercoledì sera barra giovedì di 25 O'Clock, che stasera ha ospitato Radio Africa in una puntata che insomma ci rimarrà nei ricordi per parecchio tempo, fermo restando che invece è proprio un risentirci assolutamente, insomma, al più presto avremo delle occasioni anche appunto a cui nessuno che ha fatto parte di questa può mancare soprattutto il prossimo anno, che se ne fanno 40 e noi pensiamo appunto che questa emittente, che c'ha una vita di 40 anni di vissuto, di vite, di gente, di persone, di pazzi scatenati che sono passati per questa redazione, che ognuno dal canto suo ha messo un mattoncino, un segno, un qualcosa, anche seppur minimo. Anche chi come me per 15 esempio, anni non mi sembra tanto minimo comunque. Sì, no, dico no, però non è nemmeno interessante questo, tutto sommato ci piace pure pensare che l'apporto è sempre minimo, senza proprio andarlo a quantificare, proprio perché Radio Onda Rossa è fatta anche di questo, insomma. Eh sì, poi appunto è un'impresa collettiva, quindi ognuno mette quello che può, chi più chi meno, ma insomma le qualità che ha, e poi soprattutto è un'impresa collettiva dove ciascuno si può esprimere, per quello che sente di esprimere. Non è importante se si dà tanto o poco, l'importante è che si dia, e che si dia appunto in libertà, che questa è la cosa che e poi ci il piace. Fatto che siano 40 anni che ci sia un'esperienza del genere in piedi nel panorama dell'informazione in questo paese, diciamo che forse è qualcosa di significativo in fin dei conti, anche se naturalmente nessuno si vuole incensare, però insomma è un processo, è un qualche cosa che insomma è passato attraverso tante fasi, è passato attraverso tanti pezzi di storia anche di questo paese, li ha raccontati, insomma, diciamo, se ne può essere anche orgogliosi per certi versi, no? E possiamo dire che continuerà per molti e molti altri anni, purtroppo dal prossimo sabato senza Radio Africa, e vabbè, insomma, ce ne faremo una ragione. Continua a ravanare, di un cinismo veramente, vabbè, comunque abietto. Sì, ce ne faremo comunque una ragione, sicuramente. Va bene. E allora, un saluto a tutte e a tutti. Lo vogliamo fare dando il saluto classico, quello della radio che riteniamo più importante, ricordandovi che domani mattina comunque si riprende dopo la compagna automatica Ario, è cambiata. Domattina si riprende con la rassegna stampa, la lettura delle prime pagine dei giornali nazionali, insomma, via via tutto il palinsesto che si ripanerà, vai. Non volevo dire nulla. Però pensavo che vedevo che ti agitavi. Niente, che il nostro saluto più importante lo diamo a tutte e tutti coloro che ci ascoltano in condizioni di limitata libertà personale, il carcere, la latitanza, la clandestinità, gli arresti domiciliari, i famigerati CIE, tutti i decreti, tutte le costrizioni amministrative a cui specialmente compagni e compagne vengono sottoposte attraverso appunto delle ingiunzioni amministrative che non sono delle pene, ma non sono comminate da alcun giudice, sono semplicemente dettate dalla questura e ci obbligano appunto a restare nel territorio dove si abita o a non uscirne. Insomma, tutta questa serie di costrizioni che si associano a quello che succede nel carcere. Di carcere si parlerà anche il 31 dicembre davanti a Rebibbia. Ovviamente con le iniziative appunto che sono previste, dalle 10 il presidio e poi se guardi giù che si legge meglio. Mi aiuti? No, l'appuntamento è come al solito alle 10 a via Bartolo Longo, angolo con via Raffaele Maglietti. Poi ci sarà appunto all'ora di pranzo la lenticchiata propiziatoria, sarà un giro intorno alle mura del carcere per salutare i compagni e le compagne, tutti quanti detenuti e detenute. Un finale insomma con i botti stasera, grandissimi. E quindi salutiamo tutti e tutte all'ascolto, un saluto anche a Eddie e a Paolo che voglio fare, ma penso anche voi. Sì, certo. Naturalmente. Ovviamente. A Paolo. No, è quello, il saluto era insomma per loro. Benissimo. E un saluto anche a Radio Africa che invece insomma per 15 anni ha tenuto banco il sabato in questa radio e vabbè. Vabbè, insomma, stai cercando di metterci una pezza su, vabbè. Lasciamo perdere, meglio no, così. Sì. Grazie. Sì, grazie di tutto. Va bene, dai, un finale col botto, sì. Non poteva essere altrimenti. Abbiamo allora, pronta la sigla? Vai. Penso proprio di sì. Un saluto nuovamente a tutti e a tutti e a risentirci presto. Dai! Thanks. famille n'est